Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, Nevio particolarmente disastrato quest'oggi nell'apparato laringofaringeo, ma cercherò di portare a termine anche questa trasmissione di Città Fujiko Live Club, che va in onda naturalmente dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko, ma anche sulla apposita app che potete tranquillamente scaricare dal sito radiocittafujiko.it. E prima di partire con la musica vi voglio ricordare la campagna abbonamenti. Avete sentito sicuramente lo spot che ha preceduto la sigla, ma siamo nel pieno della campagna abbonamenti. Se volete sostenere la radio, se volete continuare a sentire non la mia voce, che non è il massimo della vita, ma quella dei miei colleghi, che sono sicuramente più validi e più preparati di chi vi sta parlando, potete abbonarvi tranquillamente. Ci sono diverse possibilità: 25 euro, 50 euro, 100 euro, 150 euro. Ma se proprio vi scappa, potete anche spalare i 150 euro e fare i benefattori ai massimi livelli. Ci sono quattro possibilità di pagamento: un crowdfunding che potete trovare sulla piattaforma Produzioni dal Basso, si chiama produzionidalbasso.com/project/campagna abbonamenti di Radio Città Fujiko, ma sicuramente lo trovate perché ci sono in mezzo anche dei trattini che non vi ho detto. La seconda possibilità è con un bonifico, troverete anche in questo caso gli estremi su radiocittafujiko.it/abbonamenti. Venendo in radio a trovarci, naturalmente, se venite il mercoledì possiamo conoscerci, salutarci, magari bere qualcosa insieme, oppure con RID bancario, che è una modalità costante nel tempo, vale a dire, se voi decidete di fare un abbonamento da 50 euro con la RID o il RID, non ho mai capito come si dice, potete tranquillamente dimenticarvela, perché la banca tutti gli anni ci accrediterà la somma che voi avete deciso. Quindi niente, che dire, se volete contribuire a questa unica, oramai rimasta voce libera in quel del bolognese, potete tranquillamente fare l'abbonamento, e che questa campagna abbonamenti sarà anche piena di eventi. Ne parleremo un po' alla volta, magari malgrado tutto quello che succede nel mondo, ci saranno appunto questi avvenimenti, a cominciare dalla mostra Antropocene, che avete già ascoltato anche nello spot che ha preceduto la sigla. E quindi, come avete sentito, la voce è quella che è, quindi oggi pochissime chiacchiere, andiamo con la musica, e subito andiamo con una novità, come sempre presente all'inizio della trasmissione, e che dà un collegamento per i brani che formano la prima parte di Città Fujiko Live Club. Oggi abbiamo un grande personaggio, uno degli amori musicali del nostro presidente Alfredo Pasquali. Sto parlando naturalmente di Frank Zappa. La famiglia, o per meglio dire il management, con consenso della famiglia, sta facendo uscire a rotta di collo delle pubblicazioni inedite o edite con dovuti rimpolpamenti. Qui abbiamo una cosa inedita, appartiene al 1975, infatti il titolo completo di questo doppio dischetto si chiama Zappa 75 Zagreb Ljubljana. Già il titolo rivela quello che è il contenuto: due concerti che sono stati eseguiti a Zagabria e a Lubiana, il primo il 21 di novembre, quindi siamo circa in territorio di Record Today, l'altro il 22 novembre, quindi ancora più vicino. Il 21 a Zagabria, non vi dirò, il Sporska Dvorana è il locale, il 22 invece a Lubiana, alla Tivoli si chiama il locale. È uscito di recentissimamente questo, è uscito recentissimamente senza di questo doppio dischetto, che è veramente molto molto intrigante, anche perché vede una formazione delle Mother of Invention un po' particolare, in quanto è l'unica registrazione che è stata pubblicata che vede Norma Bell, una ragazza molto in gamba che suona il sax soprano e canta. Gli altri sono Napoleon Murphy Brock, sempre al sax e alla voce, Andrew Lewis alle tastiere, Roy Estrada al basso e Terry Bosio alla batteria. Ci andiamo subito ad ascoltare, lo ripeto, si chiama Zappa 75 Zagreb Ljubljana, mentre è già annunciato l'uscita il 12 dicembre, mi sembra, la ristampa unita di Waka Yawaka e The Grand Vazoo, ma di questo parleremo più avanti. Adesso ci andiamo ad ascoltare questo che era title track di un album di Frank Zappa di tanti anni fa, che si chiama Zoot Allures. Yeah. Essere un genio, il grande Frank Zappa era sicuramente un grandissimo chitarrista, anche se spesso è sottovalutato, ma in questa Zoot Allures ha dimostrato tutta la sua bravura, tutta la sua tecnica e soprattutto tutto il suo tutta la sua dolcezza, il suo saper mettere le note una dietro l'altra con grande dolcezza, appunto. E come dicevo, Frank Zappa è sicuramente stato un genio e purtroppo l'abbiamo perso un po' troppo presto nel 1993. Un paio di notizie spicce: Zappa era di provenienza italiana, come dice chiaramente il nome, suo padre soprattutto veniva da Partinico in Sicilia. Un consiglio amichevole: se vi capita, anzi non se vi capita, cercatelo, il documentario che si chiama semplicemente Zappa. È un documentario del 2020 che è stato diretto da Alex Winter, con delle immagini inedite e anche musica inedita del grande Frank, che purtroppo ha visto la propria musica venduta alla Universal Music in questo giugno. La famiglia sta cercando, anzi non sta cercando, oramai ha monetizzato tutto il catalogo di Frank e non so se sia un bene o un male. Frank Zappa aveva un difetto, se così si può dire, fra virgolette, quello di circondarsi sempre di grandissimi musicisti. Ha cambiato formazione, prima con le Mother of Invention, poi con la sua propria band, praticamente ad ogni album, e quindi sono praticamente un centinaio, forse qualcuno di più, non sto esagerando, i musicisti che sono passati sotto la sua bacchetta, perché spesso li dirigeva con la bacchetta, tipo appunto direttore d'orchestra. E da batterista mancato proporrò in questa prima parte della trasmissione una serie di batteristi che hanno suonato con Frank Zappa nel corso degli anni. Sono tantissimi, purtroppo non di tutti ho dei riscontri, naturalmente batteristi e musicisti che vi farò ascoltare non insieme a Frank Zappa ma per proprio conto, per conto terzi, quasi tutti conto terzi, per cui andiamo subito ad iniziare. Il primo si chiama John Guerin, un batterista che viene dalla California e che non ha suonato tantissimo con Frank Zappa, solo un paio di album, ma questi album sono stati molto importanti, più alcune registrazioni live inerenti al periodo 1969-1974. Dopo la fuoriuscita dalla band di Frank Zappa, entrò in una band che si chiamava Early Express, l'espresso di Los Angeles, che accompagnava in concerto in quel periodo Miss Joni Mitchell. Joni Mitchell non ha bisogno di presentazioni, credo, e fra l'altro uscirà fra un po' un album live con un concerto in cui lei è ritornata a cantare e a suonare. dopo aver avuto seri problemi di salute. Per fortuna si è ripresa e appunto uscirà questo album live che naturalmente vi proporrò al momento. Fra parentesi, in questa formazione del LA Express insieme a John Guerin c'è anche Robin Ford, che abbiamo visto recentemente in apertura dei concerti bolognesi di Eric Clapton. E il brano che vi faccio ascoltare è un super classico che non ha bisogno di presentazioni, l'ho già detto diverse volte oggi, basta. E, è una specie di inno. Johnny Mitchell non fu a Woodstock per motivi di management, ma scrisse un brano che si chiama proprio Woodstock. About 15 minutes. instrumental. It's called Venice Mating Call, or All We Are Saying Is Give Smack a Chance. Si è introdotto da solo il grande Tim Buckley, un cantante veramente fantastico, personaggio altrettanto fantastico e soprattutto grande musicista. Lui faceva spesso questi strumentali, questo in particolare si chiama Venice Mating Call ed è nel caso Tim Buckley accompagnato da Art Tripp, che è un percussionista che veniva da Athens in Ohio e che ha suonato con Frank Zappa, naturalmente questo è il trade union fra i vari brani in questa prima parte della trasmissione. Fra parentesi, ha suonato spesso anche con Captain Beefheart, che era un amico fraterno di Frank Zappa, poi hanno litigato, si sono riappacificati, sono un sacco di cose. Questo album di Tim Buckley si chiama Live at the Troubadour, è stato registrato nell'omonimo locale di Los Angeles il 3 e il 4 settembre del 1969. Yeah. E questa è una band che oltre al batterista si chiama Terry Bozzio, ed è anche nella novità che vi propongo quest'oggi di Frank Zappa. Oltre a lui abbiamo altri tre musicisti che hanno suonato nelle bands di Frank Zappa: Patrick Hearn al basso, Warren Cucurullo alla chitarra e Dale Bozzio, la moglie di Terry, alla voce. Fuoriuscirono insieme dalla band di Frank Zappa e formarono questi Missing Persons, una band tipica degli anni Ottanta, molto fumo e poco arrosto, a dire il vero, ed è un vero peccato che musicisti di tale calibro abbiano fatto questo tipo di scelta, che personalmente non condivido. E si chiamavano Missing Persons, si chiamavano perché allo stato attuale si chiamano Dale Bozzio e Missing Persons, infatti è rimasta solo lei di questo quartetto e va avanti proponendo questa musica tipica degli anni Ottanta. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Words. Andiamo indietro nel tempo e torniamo a una grande musica. Abbiamo in scena un grandissimo batterista. Pensate a qualche artista, qualche band, qualche disco. Lui c'era, praticamente ha suonato dappertutto. Si chiama Jim Gordon, viene da San Fernando Valley in California. E fra gli altri ha suonato anche con Mad Dogs and Englishmen, ha suonato con Joe Cocker in tour, insomma ha fatto tantissime cose, il tutto prima del 1983. Infatti in quell'anno mostrò segni di disturbi mentali, segni di schizofrenia che raggiunsero il culmine con l'assassinio da parte di Jim Gordon della propria madre. E da allora è ancora in galera e ci rimarrà, credo, fino alla morte. Potevo scegliere tantissime cose, ma per problemi affettivi ho scelto questo doppio dischetto che si chiama Live at the Fillmore di Derek and the Dominos. Torna in scena Rick Clapton, che vi dicevo prima, e che è un album semplicemente magnifico, che si conclude con questo brano che si chiama Crossroads, Rick Clapton with Jim Gordon on drums. Ed è abbastanza nella logica che dopo, così come è successo negli Yardbirds, dopo Eric Clapton sia arrivato Jeff Beck, altro grande chitarrista che ha una carriera lunghissima, che ha avuto tanto successo soprattutto fra i chitarristi. Direi che come pubblico non ha avuto quel successo trascendentale che meriterebbe. In questo caso, come sempre, Jeff Beck si fa accompagnare da grandi musicisti in questa registrazione effettuata al Ronnie Scott's Club di Londra. Scusate, un po' di problemi con la voce, ve l'avevo preventivato. E Ronnie Scott's, che è un locale di Londra storico nell'ambito della musica jazz, che ogni tanto si apre anche ad altre esperienze. In questo caso il buon Jeff Beck aveva la batteria Vinnie Colaiuta, che è un super batterista, che ha suonato anche lui con tantissimi musicisti oltre a Frank Zappa, ha suonato con Sting, con Johnny Mitchell e anche, incredibile a dirsi, Elio e le Storie Tese. Infatti 4 tracce del loro album Hit the Fickies vedono alla batteria proprio Vinnie Colaiuta, che poi a dire il vero non è tanto particolare, perché il buon Vinnie per qualche tempo ha abitato in Italia, credo anche a Bologna, ma non sono sicuro. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Stratus, fra parentesi è scritto da Billy Cobham, un altro grandissimo batterista, Mavishno Orchestra e tanti altri, che ha fatto furore negli anni 70-80, grandissimo. Il pezzo, lo ripeto, si chiama Stratus Jeff Beck Group. Ultima cosa per quel che riguarda questa rassegna di batteristi, ma ce ne sarebbero tanti altri da fare ascoltare. Un peccato, veramente non ho trovato niente registrato insieme ad altri artisti dal vivo di Chad Wackerman, che è un fantastico batterista. Ma adesso andiamo invece ad ascoltarci un altro batterista che ha suonato un po' con tutto il mondo. Ha suonato con i Weather Report, con Stevie Hackett, con Santana e ha suonato con i Genesis dal 1976. Lui viene da Baltimora, naturalmente ha suonato diverse volte per qualche anno insieme a Frank Zappa e niente, da allora, sempre dal 76, è sempre stato insieme ai Genesis fino alla loro fine naturale, in qualche occasione, soprattutto negli ultimi concerti. Alla batteria dei Genesis c'era il figlio di Phil Collins, che non poteva più suonare la batteria e già faticava a cantare. Andiamo ad ascoltarci questo pezzo, che è un super classico dei Genesis, fra parentesi Phil Collins Group. Questa è una lunga storia, magari ne parleremo un'altra volta. Il pezzo si chiama Turn It On Again, loro sono Genesis. She had that Camarillo Grillo flaming out long ahead. I mean a Mendocino Vino by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every nudge in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet, so she was breeding a corpse, but she wasn't done yet. She had Reagan's in, well, a doll with a pin. I told her she was alright, but I couldn't come in. And so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb. She said a stereo was four-way and I just love it in a room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the step right past the fuming incense stencher to where she hung a castanet. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were unconcho and it was useless anymore. She had a snake for a pet and an amulet, and she was breeding a corpse, but she wasn't done yet. She had fragrant skin, well, a doll with a pin. I told her she was alright, but I couldn't come in. And so she wandered through the doorway just like a shadow from the truth. She said a stereo was falling, love it in the room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps right past her fuming incense stencher to where she hung her castanet. I chewed my way through a rancid panocha. She laid out naked by the door. We did it till we were unconscious, and it was useless anymore. Yes, it was useless anymore. Yes, it was useless anymore. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, che è iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, Zappa 75 Zagreb Ljubljana, si chiama, un doppio dischetto con brani registrati appunto nelle due città ex jugoslave, era il 1975, ed assemblate però in modo da sembrare un concerto intero. I brani sono mescolati da una sera all'altra, però alla fine sono assemblate appunto per essere un concerto unico. L'unica cosa doppia che c'è, visto che è stato prodotto fra gli altri da Terry Bosio, sono i due assoli di Terry Bosio nelle due serate, ma è una cosa che si può assolutamente perdonare. Il brano che ci siamo ascoltati è il famosissimo Camarillo Brillo, che diede il nome anche a un famoso negozio di dischi via Ferrarese qui a Bologna. Come sempre nella seconda parte arriva Record Today, ma ancora una volta vi dirò che sono i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, 23 novembre, nel passare degli anni, e ancora una volta vi dirò che tantissime cose sono state registrate in questa giornata, per cui il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Ed iniziamo subito con una cosa molto molto particolare, una band incredibile, e infatti si chiamava Incredible String Band. Arrivavano da Edimburgo, quindi dalla Scozia, sono stati attivi dal 1966 al 1974 e poi si sono riformati nel 1999 fino al 2006, quando hanno deciso di dargli lassù definitivamente, sempre capitanati dal duo Robin Williamson e Mike Heron, due cantanti chitarristi con il pallino per il folk e per la psichedelia. Infatti per loro fu coniugato il detto psychedelic folk, che lascia appunto il tempo che trova, come del resto tutte le definizioni. Ma andiamo ad ascoltarci questo album della serie BBC Radio 1 Live in Concert, che racchiude registrazioni effettuate nel 1971 e nel 1972. Nel 1972, appunto il 23 novembre, che vedeva fra le altre cose questa The Old Buccaneer Incredible String Band, attenzione, una musica molto particolare. Well, now this song is originally I wrote it about some children who lived in the south part of England near the sea, and they knew this old man, and he was a very disreputable old man, and they reckoned that he was a pirate. So when he died, they reckoned he'd gone back to being a pirate in the South Seas. It's a very simple kind of story, and that's roughly what this song is about. It's called The Old Buccaneer. Sissy wouldn't believe when I told her the old man was gone, the one who lived all alone in the shack on the shore. It's so hard to find, so hard to go past. He used to light our cigarettes, he'd never tell anyone. With his blue tattoos, and he'd tell us tall stories the bottom of a rum glass. He's got things to see to down on the Spanish Main. He's gone away for a while. And his gone skulls and rim down on the Spanish Main. He's gone away, far away. I heard sails creaking as the stars paled, and anchor chains clinking as the night failed, way out on the bay. In a sneak up to his window, that's where I could see him there, hunched up at the table with his ink and quill. He sat so still, and I bent my ears so I could hear him. Testamenting to his will. Thank you. Anche se sulla foto di copertina di questo BBC Radio 1 Live in Concert la Incredible String Band è fotografata in un concerto open air, qui invece siamo al Paget Theatre di Londra, dove sono stati registrati molti dischetti di questa serie, appunto BBC Radio 1 Live in Concert. Questa registrazione, appunto, dell'Incredible String Band è stata fatta il 23 novembre del 1972, come ci ha ampiamente spiegato uno dei due leader, non so quale a dire il vero, o Robin Williamson o Mike Aaron. Il pezzo si chiama The Old Buccaneer. Arriviamo al 1981 con una presenza abbastanza frequente in questa trasmissione. Sto parlando dei King Crimson, hanno fatto miliardi di cose dal vivo, sono una delle mie band preferite, per cui ve le beccate abbastanza spesso. Qui abbiamo una cosa particolare, si chiama The Elements 2014 Tour Box. È un doppio dischetto in una bellissima confezione a libro che racchiude le registrazioni effettuate nel corso dell'intera carriera della band. Ci sono prove di pezzi in studio, ci sono brani dal vivo, c'è un po' di tutto. Questi Elements, che partirono proprio nel 2014, questo che vi faccio ascoltare è il primo della serie, che però purtroppo si è fermata nel 2021. Ho scritto personalmente alla DGM, che è la casa di produzione dei King Crimson, chiedendo se era la loro intenzione pubblicare anche quest'anno questo Elements, ma mi hanno risposto che non se ne parlava proprio, e la cosa mi dispiace tantissimo, perché mostrava lati diversi dei King Crimson e delle diverse formazioni. Qui abbiamo una registrazione del 1981 che vede in scena, oltre naturalmente all'immancabile Fripp alla chitarra, Adrian Belew, anche lui la chitarra e la voce, Tony Levin al basso e Bill Bruford alla batteria. Una formazione molto tosta, molto diretta, molto dura anche, come il brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Neurotica, King Crimson, 23 novembre 1981. King Crimson 1981, 23 novembre, Roxy di Los Angeles. Il brano si chiama Neurotica e ce lo siamo ascoltati da questa The Elements 2014 Tour Box. Velocissimamente, pochissime parole su Paul Weller, che penso conosciate tutti, solo che è stato con i Jam dal 1976 all'82, con gli Style Council dall'83 all'89 e dal 1990 ha inaugurato una carriera solista che gli sta dando tantissime soddisfazioni. Il 23 novembre del 1993 era in concerto alla Royal Albert Hall di Londra e fra le altre cose suonava e cantava questa Foot on the Mountain, Paul Weller, 1993. Slips away on the tide. Slips away. Sometimes a great notion can lead you astray. Come on, baby, baby, I want you to let me ride. Take me off on your silver ride. Come on, angels, along your side. She slips away. And I can't hold on. My finger, she's gone. My finger, she's gone. My finger, she's gone. My finger, she's gone. My finger, she's gone. My finger, she's gone. My finger, she's gone. Such a long way to climb. How will I ever get up there? But I know I must try. like a dream on the ocean. Always drifting away. And I can't catch up. She just sits away on the tide. Just sits away. It's alive. Just sits away on the tide. E pochi musicisti come Mike Scott e i suoi Water Boys sanno creare queste atmosfere così dolci, così tranquille, così pacifiche, diciamo. Siamo appunto insieme a Water Boys, questa band che da sempre è capitanata da Mike Scott dal 1983 e che ha cambiato stile durante la sua lunga carriera. Prima erano sulle, chiamiamole, orme degli U2, poi dopo con Fisherman Blues hanno virato verso il folk con grande successo. Fisherman Blues è un album bellissimo, ormai hanno raschiato il barile con migliaia di pubblicazioni sulle registrazioni che effettuarono i Water Boys all'epoca, ma Fisherman Blues è sempre un grande album. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Open, fa parte di un album che si chiama Karma to Burn ed è stato registrato in quel di Galway, Irlanda, il 23 novembre del 2004. I dreamed about Jimi Hendrix, he came back. Prima del prossimo pezzo vi devo salutare, perché effettivamente è un pezzo molto lungo, dura 10 minuti, ma ci tengo a farvelo ascoltare perché non credo che avreste altro modo per ascoltare questo pezzo, del quale vi parlerò dopo, perché prima vi voglio ricordare dell'abbonamento. Siamo in piena campagna abbonamenti, se volete sostenerci finanziariamente, perché abbiamo bisogno moltissimo, potete tranquillamente usare quattro modalità che potrete usare per devolvere, diciamo così, alla vostra radio preferita 25, 50, 100 o 150 euro. Se andate sul sito ci sono spiegazioni migliori delle mie. Vi ricordo solamente che ci sono quattro possibilità di... Scusate, la voce sta proprio andando via. Quattro possibilità di pagamento con un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Un bonifico semplice alla radio. Trovate tutti gli estremi sul sito della radio /abbonamenti. In presenza agli eventi o in radio, per me è la cosa più consigliata, se come avevo detto in precedenza venite poi al mercoledì mattina, ci sentiamo, ci vediamo di persona e magari ci facciamo anche uno spritz o quello che volete voi. E oppure con RID bancario, che è una modalità ciclica, ogni anno la somma che volete devolvere viene accreditata alla Radio Città del Capo senza neanche che voi vi preoccupiate di farlo. Il tutto però, come dicevo, è spiegato molto meglio sul nostro sito radiocittafugico.it, e dove ci sono anche tutti gli eventi che saranno organizzati dalla radio per l'occasione, da qui almeno fino a Natale. Poi mi dicevano anche probabilmente qualcosa in gennaio, visto che la campagna abbonamenti terminerà il 6 gennaio. Termina qui invece Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, quindi 2 ore un po' scarse, ma non è un problema. Di tutte le epoche e di tutti i generi, infatti passiamo dai Water Boys di prima ai Blackberry Smoke, uno degli ultimi epigoni del sudismo americano. La musica sudista americana ha visto i propri leader, la Allman Brothers Band, le Nesken Herd, ma ultimamente i Blackberry Smoke non fanno assolutamente mancare nulla. Hanno fatto un album dal vivo qualche anno fa, nel 2020, che si chiama Homecoming, live in Atlanta, che è la loro città, appunto registrato il 23 novembre del 2018. Vi lascio insieme a quello che è la loro signature song, cioè la canzone più famosa, la loro canzone più nota, sempre a una ristretta cerca di aficionados, che spero con questo ascolto di allargare. Si chiama Ain't Much Left to Me, non rimane molto di me, e la dice lunga sulla band alla fine di questo brano, che come dicevo dura 10 minuti. Buon ascolto, vi ringrazio per l'ascolto a proposito e vi do appuntamento mercoledì prossimo. Ciao a tutti da Nevio. was a sight to see. We turned to bad, bad turned to misery. Found out what it is and what it's not. All I ask for, you ain't what I got, baby. Well, my fall from grace was a sight.